Lo abbiamo finalmente saputo. E la farfallina che ci ha rivelato questo segreto è Fergal Kavanagh. Fa tardi la notte perché la sera si trova a lunedì mattina su via Mezza Canone a Napoli. Vabbè, potete immaginare voi, non rivelo di segreti. Scusate, la cosa che mi risulta strana è perché Jean-Luc Rugraff venga al cinema con te e la tua ragazza. Adesso questo io voglio capire. Cioè. Questo è il modo francese di divertirsi, magari. Ho capito, va bene. Max Gazzè si riveste in un altro modo, lui fa belle canzoni. Questa nuova si intitola L'uomo più furbo ed è il nostro new hit, quello che ci fa partire anche per quest'oggi per un nuovo appuntamento. Baci in tour. Le camerette a Cancun. Arredamento specializzato per ragazzi. Present. Radio Tour, the moving station. Present. This is in tour. Ben ritrovati, Baci in Tour, infatti un programma in collaborazione con le camerette a Canfora, arredamento specializzato per ragazzi che trovate anche sulle pagine gialle e sulle pagine utili. Più tardi ne parleremo approfonditamente. Salve Fergal, come va? Tutto bene? I'm okay, Fabio, how are you? Ah, fine, thanks. Avete un modo abbastanza singolare di abbronzarvi voi irlandesi. Che sarebbe? Sudare un po' di... No, è che noi diventiamo, come dire, dorati, voi diventate peperonati. Siamo un po' come caprese, no? D'inverno siamo la mozzarella e d'estate siamo il pomodoro. Va bene. Alle 10.20 noi consegneremo il primo messaggio della mattina, l'ala 007 Umbi 008. Sono già di corsa verso la consegna del primo messaggio, verso la ricerca del primo destinatario. Salutiamo anche il nostro Tetsuya Japan DJ che è in regia quest'oggi, ci farà compagnia alla parte tecnica. Baci in tour. Che Lina facesse i dischi. Pronto, Lina, hai fatto disco, no, lo sapevo, adesso te lo passiamo pure su tutte le... Va bene. Scusate, ogni tanto facciamo qualche imitazione, ci permettiamo, come dire, di fare il verso a quelli di Good Morning, ma ci mancherebbe altro, insomma, non ci possiamo permettere mai, non siamo a quel livello di... No, assolutamente no. Ti devi avvicinare a me, in che lingua te lo devo spiegare? Ma il problema è che sto qua a grattare le teste e dire, ma Lina chi è? Cioè, adesso io trovo, Lina è una bellissima, Lina, no, te lo spiego io, Lina, che Lina è una bellissima ragazza sarda che vive a Cologno Monzese. Adesso spiegarti che no, veramente non vive, vive a Treviglio e lavora a Cologno Monzese. Adesso dirti che cosa fa è un po' lunga, ma insomma, poi te la presento un giorno. E secondo me è il tuo tipo lì. Va bene, e secondo me pure tu sei il suo tipo. Sarde, mi piace, Ti piacciono le ragazze sarde? Mm-hmm. Vabbè, salutiamo i nostri ascoltatori della Sardegna che ci ascoltano in Costa Smeralda sulla frequenza 107.5. Ciao ragazzi, buona ascolto. Loro, al mare adesso, da Smeraldo. Che meraviglia, che meraviglia. Meraviglioso. Non possiamo andare su Marte, Fergal? Purtroppo no, ci avevo progettato questo viaggio in Marte, però purtroppo è uscito uno studio che l'uomo non ha le gambe, non ha le strutture sulle gambe per andare, perché zero gravità si brucierebbe proprio, si spaccherebbe proprio le gambe. Perché ci vogliono 3 anni per arrivare su Marte, quindi si arriverebbe senza le forze per poi camminare sul suolo di Marte. Che sta succedendo? Infatti sapete benissimo perché eccoci arrivati al momento di Baci in Tour, la dedica consegnata sull'uscio di casa. E vediamo se la nostra Lara è in linea. Lara, ci sei? Sì, ci sono, eccomi qua. Buongiorno a tutti ed è una meravigliosa giornata su Napoli, noi siamo pronti. E anche voi il cuore delle persone chiamate, fatele emozionare come è appena successo alla radio. Prenotate il vostro bacio consegnato in diretta sull'uscio di casa e ricordatevi che è gratis il numero per prenotarsi allo 081 790 1411. Baci in tour, missione compiuta. C'è un appuntamento che avete qua su Radio Tour The Moving Station che si intitola Baci in Tour, la dedica consegnata sull'uscio di casa. 2 volte la settimana questo appuntamento vede anche Fergal Kavanagh in coppia con me, che sono Fabio, il nostro ospite irlandese. Cioè abbiamo l'ospite francese e l'ospite irlandese, guai a chiamarlo inglese, ragazzi. Oh, mi offendo proprio. È come dire, Fabio, che tu sei un milanese. Cioè, non che dico che quello è un'offesa, perché non è un problema essere inglese nemmeno, è solo che uno dovrebbe essere fiero di sua origine, e questo è. Vabbè, scrivete messaggi al nostro GSM Box come avete già cominciato a fare. Vi ricordiamo il numero 0348 24 38 888. 22 minuti alle 11 del mattino. Fabio, ti è mai successo di stare al bancomat aspettando che ti consegni i soldi? Sì, ma tutti i giorni. Ma è un po' scocciante, non trovi che ci vuole un po' di tempo a stampare? Io fortunatamente c'ho una banca veloce, però si può succedere di aspettare tanto tempo. Spesso all'estero, per esempio, mi è capitato di fare bancomat in America o in Inghilterra e aspettare tanto tempo. Vabbè, gli americani hanno trovato una soluzione a questo problema. Praticamente adesso mettono in onda sullo schermo del bancomat un bel film pubblicità per un film mentre aspetti che i soldi vieni consegnato. Cioè allora, un trailer, ti fanno vedere un trailer di un film mentre tu aspetti che i soldi ti vengano consegnati? Sì, quindi se c'è anche un pubblicità per il film, però è anche un modo di passare questo tempo scocciante. Beh, è divertente, però potrebbero anche, per esempio, come dire, pensare all'evoluzione di questo tipo di servizi, per esempio farci vedere delle donnine nude mentre prendiamo i soldi, oppure se ci vanno delle belle signore far vedere dei bei uomini in costume da bagno, che ne so, insomma, una bella gara di fitness, qualcosa che riguarda, no? Magari con pin number, con numero di pin, e poi anche magari un'altra, non lo so, 10.000 lire sul conto. Sì, adesso poi ti metti a navigare sulla scherma del banco, ma magari anche su internet, mentre la fila dietro di te diventa chilometrica. Vabbè, 21 minuti alle 11 della mattina, era Kim Lucas con Let It Be The Night, e adesso arriva un nuovo appuntamento Just For You. Chiamateci per chiedere la vostra canzone preferita allo 081 790 1411. Sì, era una bella ragazza, bella voce pure. Che emozione, Fabio, che emozione. Eri già in Italia quando cantavano, quando avevano grande successo? Non ancora, allora come te la ricordi? No, purtroppo no, però la storia rimane. Copertina di dischi, era anche abbastanza scosciata, mi pare di ricordare. Emozione su Radio 2 The Moving Station, poco più di un quarto d'ora alle 11 del mattino, siamo pronti prontissimi per un nuovo appuntamento Just For You. E adesso Sandy ci farà ascoltare Lenny Kravitz, If You Can't Say No. The Moving Station, 8 minuti alle 11 del mattino. Se c'è una cosa che non sopporto, se c'è una cosa che mi, come dire, mi innervosisce particolarmente, è quando squillano i cellulari al cinema. È una roba. Mamma mia, Fabio, siamo stati al cinema ieri e non ti direi quante volte è squillato un cellulare di chissà chi. Ma che dobbiamo fare? Allora, adesso io vorrei fare un appello a questo simpatico ragazzo che era ieri sera al cinema. Che cinema era? Era l'Astra. Di Napoli, a vedere Le Regole della Casa del Sidro, che già di suo non è che, insomma, già come film, già due... No? No, è bello, è pesante, ma è bello. Però bello. Poi ti squilla anche il cellulare e ti fa cadere tutta la concentrazione. Ma uno come fa? Solo un fastidio. Guarda, dovrebbero coprire tutti i cinema con un bel foglio di piombo. Solo così. Sì. Sai che caldo farebbe, però così non entrerebbe le onde del cellulare. Diventano anche dei rifugi nucleari, però, poi così. Cos'è successo? Sei scappato? Di grande, siamo arrivati al momento di Tour News con Michele Seville. Good night, that's LFO, and questo è il nostro new hit alle 11:02. Now, what does it mean, LFO, in your opinion? Allora, the F-word sappiamo tutti quanti, e il resto posso solo immaginare. It's like funky ones. Anyway, attenzione a tutti gli studenti universitari. Radio Tour mette a disposizione un ciclo di preparazione per un esame a scelta. Basterà fornire al numero verde 800-32-2020 la vostra motivazione. La più simpatica sarà premiata nel corso di Sotto Controllo con Lino D'Angiò. Ogni domenica mattina su Radio Tour e The Moving Station. 800-32-2020. Radio Tour, The Moving Station. The Moving Station. Radio Tour, The Moving Station. Radio Tour. L'altra parte del vetro ha preso possesso delle macchine e ringraziamo Tetsuya che ha curato la regia fino a questo momento. Lei è Lara Fabian, Gonna Be Love Again, Radio Tour, The Moving Station. Allora, tu che carta di credito hai? Io purtroppo l'ho avuto una carta di credito sciolto, non esiste più. Come una carta di credito sciolta? Cosa avevi? Una roba... Credito di 500.000 lire, no? Ho comprato un CD in troppo e è finito. Cioè, una di quelle carte di credito che ti hanno dato a Napoli, alla stazione centrale, probabilmente. Ma immagino, Fabio, che tu adesso di scrivere questo nuovo di American Express, questo nuovo nero, che è proprio quello per i pochi privilegiati. Cioè, praticamente prima era la carta American Express, era quella verde, quella famosa, poi è uscita quella gold. Sì, e quella poi adesso c'è la carta American Express nera, ragazzi. Ah, hai saltato quello platino che è uscito nell'84. Adesso loro hanno scritto a tutti quanti che hanno quello platino e gli hanno chiesto, volete, no, non tutti quanti, quello scelti, certo. E gli hanno chiesto, volete partecipare a questo molto esclusivo, però ci vuole un sacco di soldi. Quanti? Allora, $1,000 all'anno solo per commissione, il resto non lo so. Ci sei, Fabio? 2 milioni all'anno solo per averla, questa carta di credito? Sì. Posso pensarci, mi sa che mi tengo la mia buona, sana, splendida carta SIM. Chiedere di andare a scena con Whitney Houston o con George Michael, chi preferiresti? No, ma aspetta, non pensare ai fatti sessuali. Non sto pensando, stavo pensando, se uscisse con George Michael è probabile che mi divertirei tantissimo a parlare di Wham degli anni 80, eccetera. Mentre con Whitney Houston, che farei? Mi drogherei, mi troverei in un istituto alla fine della serata. Quindi purtroppo è alla fine sarebbe meglio. Alla fine sarebbe meglio George Michael? Direi di sì, però non lo direi a nessuno. Anche se a un certo punto ti dovesse dire, ci andiamo a fare un giro nel bagno. Beh, un'esperienza si può provare sempre. Poi George Michael. L'hai detto Fergal. E adesso eccoci arrivati al momento di Baci in Tour. Questa è la dedica consegnata sull'uscio di casa. Baci in Tour. Vediamo se la nostra Lara 007 è in linea. Lara, ci sei? Sì, ci sono, ma voi siete fuori. Ecco, io ci sono sempre. Siete voi che mancate, secondo me, con la testa. Allora ragazzi, non... Grazie, ma insomma, è chiaro che questi qua non rispondono, scusate ragazzi, ci mancherebbe pure che rispondessero al citofono, c'hanno ben altro da fare. E allora, prenotate il vostro bacio consegnato in diretta sull'uscio di casa e ricordatevi che è gratis, ma soprattutto assicuratevi che il destinatario non sia in altre faccende affaccendato. Prenotatevi allo 081 790 1411. Baci in tour, missione compiuta. Inizio di Moving Station, questa è la bella canzone che ci ha portati fino alle 11.33 minuti. Salutiamo un po' di amici che hanno scritto al nostro GSM Box, per esempio Arcangelo, che domani compirà 21 anni. Buon compleanno per domani, Arcangelo. È classe 5S dell'ITC Carlo Levi e Portici, che stanno studiando la matematica con noi. E bello, poi bello. Salutiamo anche Jason, che manda tanti saluti a Caris, e poi ancora Gennaro, che vuole sapere cosa ha fatto ieri la Salernitana. Speriamo. So. Allora ti dico subito, Vincenzo ha battuto per 2-0 la Salernitana. Mannaggia, che peccato. Ci dispiace per gli amici della Salernitana, che sono anche loro grandi amici di Radio Tour, Moving Station. 11:33 minuti, ricordiamo Fergal il numero del nostro GSM Box. Il GSM Box ci può contattare al 0348 24 38 888. We'll be back in a while with Systematic. SPOT. Big Station, siamo giunti ad un nuovo appuntamento just for you. Yes, quindi se volete sentire qualcosa, un canzone, dedicarlo sia a voi o a noi o a qualcuno che tenete cari a voi, chiamateci a questo numero subito, è il 081 790 1411. Si canta quando si entra in onda. Sto facendo il sottofondo. Comunque voglio nominare questo per tutti quanti che insegnano l'inglese. Questo è ottimo per insegnare il present continuous. I am sitting in the diner. Eccetera, quindi pensate un po'. Right, siamo arrivati a un momento molto speciale, no Fabio? Infatti siamo arrivati ad un nuovo appuntamento just for you. Pronto? Pronto? Con attenzione, questo appuntamento Just For You è presentato dalle camerette a Canfora, arredamento specializzato per ragazzi. Se per i vostri figli volete ordine e colore, comodità e praticità, il consiglio di Radio Tour è le camerette a Canfora. In Campania sono a Scafati, Pompei ed Avellino. Le camerette a Canfora sono anche sulle pagine gialle e sulle pagine utili. Adesso un momento, perché c'è una dedica che durerà un quarto d'ora. Allora, per Valeria, Natalia e Paola del bar Charlene di Napoli, il messaggio è: finalmente abbiamo strappato la concorrenza. La canzone che vogliono ascoltare è di Rotta su Cuba, Notti d'estate. Paris, Sarina Paris anche, anzi, look at us, guardaci, è un po' difficile in radio. Comunque c'è un bel spettacolo qua. Io e Fergal Kavner accanto a me, il bellissimo Fabio Brescia, che oggi si mette in un tank top proprio. È arrivata l'estate, Fabio, bravo. Cosa hai detto? Cosa mi sono messo? Un tank top, non si chiama così. Sì, canottiera in italiano, cioè non tutti parlano l'inglese, quelli sei che ci ascoltano. Sei un sex symbol, bello, un sex symbol. E sabato sera che fai? Adesso te lo dico. Radio Tour in Tour. Sabato prossimo siete in tour con me al Plinius. Suoni, colori, atmosfere e spettacolo per le tue notti di sabato al Plinius, The Dance Place, sul Lago d'Averno, a Pozzuoli, Napoli. Radio Tour in Tour. Chiama 081 790 1411. Baci in Tour, siamo arrivati ad un altro appuntamento del Tour News con Michele Sabile. Vacche qua non entra, non ti preoccupare. Sergen Garcia, Amor Pami su Radio Tour The Moving Station, questa nuova canzone di Sergen Garcia che piace moltissimo a Ferga, lui è proprio folle di... C'ho un grande amor per Sergen Garcia, credo proprio di no. Vabbè, mezzogiorno e 3 minuti, buona giornata, ben ritrovati, Fergal Kavner e Fabio Brescia per Baci in Tour, la dedica consegnata sull'uscio di casa. C'è il nostro fiorellino del mattino in regia che ci terrà compagnia per il resto del nostro appuntamento, che vi ricordo terminerà alle 13, ma intorno alle 12.20 abbiamo un altro momento Baci in Tour, cioè incontreremo nuovamente la nostra Lara 007 e Umbi, che sono alla ricerca del prossimo ed ultimo destinatario. Radio Tour, the moving station. Radio Tour, the moving station. might give me a gift too. Un gift, come sapete, immagino, speriamo, è un regalo. E a proposito di un regalo, se volete presentare anche un regalo e anche un bel messaggio, un bel consegno, un bel bacio in tour alla vostra persona preferita, assolutamente, per qualunque occasione, forse il compleanno, forse si sono fidanzati, forse anche perché lo volete bene, basta chiamarci adesso alle 081 790 1411, e tra poco, tra meno di 10 minuti, dovremo incontrarci con Lauro 007 per vedere a chi, e sentire a chi consegnerà questo bacio in quest'ora. Tutto quello che dovete fare è pensare una bella frase ad effetto e poi ci pensiamo noi. Chiamate il nostro centralino, come dice Fergal, 081 790 1411, segnalateci dove si troverà il destinatario del messaggio ed è tutto gratis. E adesso Davide De Marinis su Radio 3 The Moving Station con Chiedi quello che vuoi. Radio 3 The Moving Station, Around the World, c'è anche la nostra Lara 007 con Umbi e sono in giro per cercare gente alla quale consegnare messaggi. They're around the world, around the city. Infatti siamo infatti arrivati. Siamo arrivati al momento di Baci in Tour. Eccoci qua, le dediche consegnate sull'uscio di casa. Baci in Tour. E allora vediamo se la nostra Lara è in linea. Lara, ci sei? Sì, linea, eccomi qui, pronta. Sì, appunto, giriamo la città con la nostra bella sorella in cerca dei destinatari che voi ci avete segnalato. In questo caso ci troviamo a Napoli, a Viale. Allora, ciao, ci vediamo presto alle 3:20. Allora, se volete prendere il vostro bacio, consegnate in diretta sull'uscio di casa. Ricordatevi che non vi costa niente, tranne una telefonata al numero 081 790 1411. Bacio in tour, che tu sappia, si è interrotto questo periodo di 10 giorni? Ancora no, dicono, le previsioni dicono che durerà fino a giovedì, quindi avete 2 giorni per raggiungere l'Irlanda. Poi dopo comincerà nuovamente a diluviare, perché non sarà proprio il massimo della vita. Cristina Aguilera con Jenny in the Battles, Radio 2 The Moving Station, 12 e 29 minuti. Torniamo tra poco con JT Company and Wake Me Tonight. ci sono un po' troppo figli qua. Ti siete persi la scena del cartone animato, assolutamente incredibile. Un po' di fantozzi qua. Cavana che litiga con il filo della cuffia, vabbè. Wake Me Tonight, JD Companies, Radio 3 The Moving Station. Sembravo te quando l'ho detto? Sì, era proprio Fabio. Fergal, voci. Facci di Fabio, voci di Fergal, vai. Vabbè, chiamateci subito per chiederci la canzone che volete ascoltare. Alla più veloce Radio Tour regala la canzone ed anche una Eau de Toilette per lui e per lei. Chiamateci immediatamente 081 790 1411. Alla fine, ti piace la musica di Pino Daniele? Che male c'è. Vabbè, io non sono napoletano, però tutti i napoletani dicono: ma come ti piace Pino Daniele? Questo adesso non è come ero una volta 10 anni fa, però devo dire, adesso è bello per me, che male c'è, un bel brano. Bravo Pino, bravo. 21 minuti alle 13 del pomeriggio, siamo pronti per un nuovo appuntamento Just For You. GFF. L'eau de toilette per lei e per lui ti offre questo appuntamento. Radio Tour regala Paola GFF, la nuova Eau de Toilette Gianfranco Ferré per lui e per lei. Beata Paola. La Eau de Toilette Gianfranco Ferré vi aspetta in profumeria con fantastici viaggi in Australia. Ed ora grazie alla nostra Paola su Radio Tour The Moving Station, ma non da Gigi D'Agostino con Another Way. Ci sono solamente i crime of passion, ci sono anche crime of tantissimi crime. Come si chiama? Come si dice un crimine telematico in inglese? Telematic crime. Ok, stiamo chiaramente parlando di virus, no? Vabbè, sì, abbiamo già parlato tantissimo di Love Bug che ha colpito tutto il mondo la settimana scorsa, ma non è stato il primo. Fabio, è mai arrivato a te un'email con un elenco di tutti i siti pornografici che sì, mi arrivano tutti i giorni gli elenchi dei siti pornografici a me. È successo anche a me. E voglio dichiarare, perché non lo so per Fabio, però io non le ho mai richiesto. Però adesso c'è un modo per... neanche io le ho mai richiesti, però c'è un modo per farle arrivare su una cartella di posta che non ti compare nella tua posta normale. Cioè vanno da un'altra parte tutti questi indirizzi strani che arrivano dall'America, eccetera, eccetera, e poi dopo 30 giorni si autocancellano. Però è un guai se tu scarichi la posta davanti al tuo capo in ufficio, è la fine. Certo, assolutamente sì. Comunque questo risale ad un virus del 99 di marzo, che si chiama Melissa, che mandavo un elenco di tutti questi siti che poi una volta che l'aprivi mandavo a 50 oltre persone, un po' come a Love Bug, solo che senza danni, tranne forse il tuo lavoro se il capo ti vede. Dipende, se ti vede la tua ragazza e dice: sporcaccione, ma che robaccio vai a guardare su internet. 9 minuti alle 13 del pomeriggio, arriva Piero Perù, Io ci sarò. Almeno l'edizione mattutina, un programma in collaborazione con le camerette a Canfora, arredamento specializzato per ragazzi, che trovate anche sulle pagine gialle e sulle pagine utili. Quando ci vediamo, Fergal? Ci vediamo venerdì mattina. No, però veramente ci vediamo. Champ Europe questo pomeriggio alle 17:10. Ma ci vediamo giovedì sera a cena a casa tua, però me l'hai promesso. Questo è vero, non aspettare un granché. La pizza dalla pizzeria sotto casa. Non una cena tipica irlandese? un sacco di birra, dai. Vabbè. Grazie a Fiore per la regia, ci sentiamo tra pochissimo per passare insieme un'ora tra le 13 e le 14. Tra poco Daniele Reinica, noi con Beauty Tour. Bacio in Tour torna al pomeriggio con Jackie alle 15. Da Fabio un bacione e buon pranzo.